Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è in Italia, solo perché i due protagonisti sono italiani, così come gran parte della loro arte. Ma in realtà è nei teatri di tutto il mondo. Oggi parliamo di musica lirica, di opere, di bel canto. Parliamo della voce, strumento tanto affascinante quanto delicato, che può regalare onori ma anche attirare critiche. Parliamo di tenori e della possibilità del successo che è certamente dovuta al talento, ma che può nascondersi nell'imprevisto. Raggiungere livelli di popolarità planetaria non è da tutti. Molti artisti ci provano nel corso della vita attraverso la propria arte. La storia di oggi parla di chi ha saputo entrare nella casta degli idoli universali grazie al suo grande talento, ma anche grazie a una personalità che gli ha permesso di valicare i confini del suo campo specifico, facendogli guadagnare le simpatie di tutti. Stiamo parlando di Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Quando il 6 settembre del 2007 ci ha lasciati, la risonanza internazionale suscitata dalla notizia della sua scomparsa ha confermato la sua fama mondiale. The maestro fought a long, tough battle against pancreatic cancer, which eventually took his life. Состояние здоровья легендарного итальянского тенора Лучано Паваротти ухудшилось. Tausende Trauernde kamen am Freitag, um Luciano Pavarotti in seiner Heimatstadt die letzte Ehre zu erweisen. Tutte le televisioni ne parlano. È morto il più grande tenore di tutti i tempi. Il funerale viene mandato in diretta in Mondovisione. Luciano, o Big Luciano come lo chiamavano, lascia un grande vuoto, non solo nella musica lirica, ma anche nel cuore di molta gente. Appresa triste notizia, scomparsa tenore Luciano Pavarotti, sommo pontefice esprime sentimenti di cordoglio per dipartita grande artista, che con suo straordinario talento interpretativo ha onorato il dono divino della musica. Il telegramma di Benedetto XVI, letto dal Vescovo durante la cerimonia funebre, dà in un certo senso la misura del fascino che Luciano Pavarotti in vita ha saputo esercitare su tutti, senza ostacoli di nazionalità, religione, razza, età o cultura. Perché la musica parla a tutti. E Pavarotti uomo, non solo artista, ha saputo più di altri onorare questo dono divino, come dice il Papa. Eppure, poco prima di morire, Luciano ha detto di voler essere ricordato come un tenore d'opera. Precisazione superflua potrebbe sembrare per il più grande tenore d'opera di tutti i tempi. In realtà, verso la fine della sua vita, il personaggio mediatico ha finito per fagocitare l'artista. Ma per capire meglio, dobbiamo partire dall'inizio. Io sì che sono nato senza camicia, perché nella mia famiglia il papà cantava. Ma è anche vero che nel mio stabile di 17 famiglie con 70 persone, quando io cantavo mi zittivano, dicevo che ero un pazzo. Luciano nasce a Modena, il 12 ottobre del 1935, in una famiglia povera, come racconta lui stesso. La madre Adele lavora in una fabbrica di sigari, mentre il padre, Fernando, fa il fornaio, ma ha una grande passione per il canto. Canta infatti nella corale Gioachino Rossini della sua città. È proprio il padre a trasmettere al figlio l'interesse per la musica lirica. Ho sognato di diventare cantante quando avevo 4 anni e ho sentito mio padre cantare in chiesa con la sua bellissima voce da tenore e così ho detto a me stesso, proviamo a fare qualcosa. L'ambiente familiare è quindi di stimolo per il giovane Luciano, che fin da bambino sale sul tavolo della cucina per intonare qualche aria sentita nei dischi del padre Fernando, una collezione dove si trovano tutti i più grandi, come racconta Luciano a una TV americana. Per me è stato impossibile scappare da mio padre, perché lui aveva tutti i dischi dei più grandi del passato, cominciando con Caruso, Gigli, Björling, tutti loro, Di Stefano, Tagliavini, tutti quelli che noi chiamiamo i tenori del bel canto. Il padre ha una bella voce. Ciò che gli ha impedito di tentare una carriera da tenore è stata l'emotività. Troppo nervoso per pensare di affrontare un palco, ma la sua voce è bella, davvero bella. Sta in fronte a te. Mi diceva sempre, se hai la mia voce potrai fare qualcosa di veramente speciale. E io dicevo, grazie mille. Il rapporto col padre per Luciano è molto intenso nel corso della sua carriera. In fondo è a lui che deve la scoperta del bel canto e probabilmente anche il talento. Come ricorda Luciano Divertito, anche il papà si vantava di questo. Dice: la voce gliel'ho data io, l'intelligenza mia moglie. Il papà è anche molto simpatico. Intervistato insieme alla moglie Adele per una TV inglese, parlerà della differenza tra la sua voce e quella del figlio in maniera molto affettuosa. Beh, forse la mia voce era un po' più ostica. Maybe my voice was a bit more forceful, a bit louder. His is more melodic. My voice was always rather harsh. Cattivo, ecco, cattivo. Not harsh, strong. They know what I mean by harsh. La mamma, che anche in questa intervista interviene a placare il marito davanti alle telecamere, è per Luciano la parte più romantica della famiglia, quella che lo ha educato in questa direzione, mentre il papà rimane il faro sulla via della musica. La mamma mi ha educato a questo. Il papà ha la musica, sì, però il papà era abbastanza sbrigativo. Sì. Non rude, anzi, no, era dolce anche lui. Ma sbrigativo, come secondo me deve essere un uomo. E la mamma invece mi ha aiutato molto. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Per la vita non ti lascio mai più. Luciano si esibirà col padre qualche volta anche davanti alle telecamere per onorare l'uomo che in fondo gli ha trasferito questa passione. Perdoniamoci a noi, perdonateci. Babbo, allora. Bravo. No? Hai cantato meglio 3 ore fa, ma eri più giovane. Ecco. Lui, fin da bambino, sente scorrere dentro di sé la stessa passione del padre. La voce, inoltre, sembra esserci, forte, melodica, limpida, il che gli fa credere che forse può tentare questa strada. Non smette mai di cantare, o forse smetterà solo in un'occasione, come ricorda lui con un giornalista della CNN. Penso che smisi di cantare solo una volta, per un anno. Quando da bambino diventai un uomo e la voce cambiò, e da alto divenni un tenore. Che mi ricordi è l'unica volta che ho smesso di cantare. Essendo però un uomo coi piedi per terra, equilibrato, come gli piace ricordare... Io sono nato sotto il segno della bilancia, non la voglio far grande, ma insomma... sono un equilibrato. Pensa di prendere anche un diploma, qualcosa che gli possa dar da vivere nel caso non si avverasse il sogno di fare il cantante d'opera. E così frequenta la scuola magistrale per diventare maestro. Nel frattempo però prende lezioni di canto. Coltiva la sua passione in privato. Quando decide di seguire questa strada, lui e il padre vanno dal miglior insegnante di Modena, Arrigo Pola, un tenore ancora in carriera, disposto a dare lezioni anche senza compenso, vista la situazione economica della famiglia Pavarotti e visto il talento del ragazzo, come dirà lo stesso Pola nella biografia di Pavarotti. Capii subito che aveva una voce eccezionale e accettai di prenderlo come allievo. Dopo la voce, l'intelligenza è la sua più grande qualità come cantante. Se gli spiegavo qualcosa o gli mostravo di produrre un tono, capiva subito. Non era faticoso insegnare a Luciano, afferrava le cose con grande rapidità. Luciano seguirà i principi e le regole del suo primo maestro per tutta la sua lunga carriera. I vocalizzi, soprattutto, l'apertura della mascella per aumentare il volume della voce e per rendere automatica una pronuncia chiara. In seguito, quando 3 anni più tardi Pola si trasferisce per lavoro in Giappone, Luciano prosegue con il maestro Ettore Campogalliani a Mantova, con il quale perfeziona il fraseggio e la concentrazione. Angio di pace all'anima, la voce mia risuona. Filippo Galliani è il maestro di un'amica d'infanzia di Luciano, Mirella Freni. Una strana coincidenza che lei racconta così. Tutti e due modenesi. Poi io soprano e lui tenore, perché se fossi nata mezzo soprano forse avevamo meno possibilità di fare repertorio insieme. Ma la cosa ancora più strana è che la sua mamma e la mia mamma lavoravano gomito gomito nella manifattura dei tabacchi. Due Carmen avevamo noi, già l'opera. Mirella è l'amica di sempre. Addirittura vicina di Lettino quando le madri li portavano al Baliato, una specie di asilo nido fornito dalla fabbrica per chi vi lavorava. Con Luciano c'era un rapporto tale di amicizia fraterna proprio, che era una cosa incredibile. Poi siamo stati per 4 anni e mezzo a fare i corsi di perfezionamento dal maestro Campogagliani a Mantova. Partivamo da Modena con la nebbia, con uno scatolino, diciamo, di macchina che si fermava sempre quando c'era la nebbia. Nel tragitto non fanno che costruire castelli in aria sulla loro ipotetica carriera, che non tarderà ad arrivare, soprattutto per lei. Mirella avrà la possibilità di affermarsi a livello internazionale molto prima di Luciano. Per lui, il destino che lo porterà a incrociare l'altro protagonista di oggi, nonché la sua grande opportunità di farsi notare, arriverà un po' dopo. C'è una cosa che accomuna i due amici, oltre al talento e alla passione per il bel canto, ed è il modo in cui si sono fatti conoscere al grande pubblico. E ho avuto poi la possibilità di fare il debutto a Bologna, dove c'era stato un concorso anche per giovani e io avevo vinto, di modo che ero pronta per cantare le ultime recite, perché le prime le cantava la Victoria de Los Angeles. Che naturalmente lei non aveva fatto il concorso, però. E avvenne che, sfortunatamente per lei, ma fortunatamente per me, lei si ammalò prima e ha cantato, mi pare, una recita o due, adesso non vorrei dire una cosa non corretta, e si è ritirata prima, di modo che mi hanno chiesto di cantare subito e dopo ho cantato tutte le recite io, e di lì ho cominciato un po' con questa Mimì che mi è rimasta addosso e della quale sono molto felice. Luciano si congratula con l'amica che incontrerà nella carriera varie volte come partner sul palcoscenico. Nel 1960 Pavarotti partecipa per la prima volta al concorso nazionale di Achille Peri a Reggio Emilia. Ad accompagnarlo l'amico Leone Magera, marito di Mirella Freni. Luciano fa qualche errore durante la performance e arriva a secondo. Come scrive nella sua biografia, quando Leone lo vede ritirare la medaglia d'argento, gli dice: «Dalla tua espressione capivo che non eri qualcuno che si accontentasse di essere secondo», mi ha detto Leone. In compenso vinsi l'edizione successiva, iniziando così la mia carriera. Nel 1961 arriva quindi la vittoria del concorso e nell'aprile dello stesso anno, all'età di 26 anni, il debutto al Teatro Municipale di Reggio Emilia, lo stesso teatro dove debutterà anche l'altro protagonista di oggi, con un'opera che diventerà per lui emblematica, ossia La Bohème di Giacomo Puccini, più volte ripresa anche in tarda età, sempre nei panni di Rodolfo. Quel 1961 è l'anno del debutto nazionale per Luciano. La Gazzetta di Reggio Emilia scriverà: «Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato con encomiabile buon gusto e vivida musicalità, oltre a dispiegare un apparato vocale non meno penetrante che flessibile. È piaciuto forse di più dei suoi colleghi». Niente di sensazionale, ma una critica certamente lusinghiera per un giovane che si affaccia alla ribalta della lirica per la prima volta. La vera conseguenza per la carriera di Luciano è che dopo quella Bohème, Alessandro Ziliani, un ex tenore diventato agente, è presente in teatro e rimane impressionato dalla sua voce. Lo ingaggia subito. Il repertorio che sceglie per lui è limitato. Pianifica con intelligenza i suoi primi impegni, in modo da permettere al giovane di crescere e affinarsi senza fare scelte avventate. La scena internazionale che lo consacrerà il Big Luciano che tutti conosciamo non tarderà ad arrivare, e sempre con l'opera pucciniana. Essere un tenore significa molto per Pavarotti, soprattutto poter interpretare le parti che sono nelle sue corde, è il caso di dirlo. Essere un tenore vuol dire essere baciati da Dio, perché è una voce eccitantissima, una voce che l'unica che può competere con la famosa diva che è il soprano del palcoscenico, è quello che sul palcoscenico è sempre l'amoroso, è sempre quello che in ultimo o l'ha vinta o muore d'amore, per cui commuove. Il 1961 è un anno importante anche dal punto di vista privato, non solo artistico. Luciano sposa, dopo 7 anni di fidanzamento, Adua, sua compagna fedele. E a un intervistatore che gli chiede se il suo sia stato un matrimonio d'amore, lui risponderà. Ma direi che è stato di interesse. Ho trovato mia moglie interessantissima, una donna molto interessante. Tra il 61 e il 62, il giovane tenore, sotto la guida di Ziliani, interpreta ancora la bohème in diverse città d'Italia. Ottiene pure qualche scrittura fuori confine. E intanto si cimenta con il ruolo del Duca di Mantova in un'altra opera particolarmente adatta a lui, il Rigoletto. Va in scena a Carpi e Brescia e, sotto la guida del maestro Tullio Serafin, dispensatore di preziosi consigli, al Teatro Massimo di Palermo. In Italia è considerato una promessa, almeno dagli addetti ai lavori, ma all'estero, nonostante qualche incursione prestigiosa, ancora non si è imposto. Il 24 settembre di quell'anno, il Corriere della Sera, nella pagina degli spettacoli, pubblica un trafiletto su una colonna, il cui titolo annuncia «Scoperto a Londra, tenore italiano». L'occhiello precisa «Si chiama Pavarotti» e prosegue. Un giovane tenore italiano, sconosciuto al pubblico londinese, ha ottenuto vivissimo successo nella riedizione della Bohème al Covent Garden. Si chiama Luciano Pavarotti e ha 27 anni. Il suo Rodolfo ha commosso gli appassionati della lirica e si è aggiudicato i consensi calorosi della critica. Pavarotti era il solo italiano nella compagnia bohémienne di Montmartre. Tutti gli altri cantanti erano inglesi. Com'è capitato Luciano Pavarotti nella Bohème alla Royal Opera House di Covent Garden a Londra? Qualche mese prima, Joan Ingpen, la controller of opera planning degli spettacoli più importanti del teatro inglese cui spettava la scelta dei cantanti, avendo in cartellone una bohème con l'acclamatissimo Giuseppe Di Stefano, sta cercando un sostituto che sia in grado di ricoprire con onore il ruolo di Rodolfo, nel caso che il più celebre titolare si trovi costretto a dare forfait. Può capitare, lavorando con uno strumento così fragile come la voce. Luciano è a Dublino, impegnato nel Rigoletto. Qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre una lamide leggiadro viso, il piatto il riso e menzognero. Ecco come Joan racconta la sua scoperta nella biografia di Pavarotti. Andai a una rappresentazione del Rigoletto e c'era quel giovanottone italiano, non grosso come ora, ma insomma, che a quel tempo era molto goffo in scena. Cantava un po' per il logione e si attaccava agli acuti come se non volesse lasciarli mai più. Ma buon Dio, che voce! A Joan Luciano sembra la persona giusta e così lo invita ad andare a Londra per la Bohème. Per rendere la cosa più interessante, gli dice che avrebbe senz'altro cantato l'ultima recita se accettava di fare il sostituto nelle altre. Luciano era così poco conosciuto che fu felicissimo di venire a Londra per un compenso modesto. Il destino decide che quell'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e così mette Luciano nella condizione di sostituire fin da subito Di Stefano, che per un malanno è costretto a lasciare il teatro. La voce abbandona al momento dell'entrata in scena uno degli idoli del giovane Pavarotti e lui si trova così sul palco a fare i conti con un pubblico di veri melomani come quello londinese della Royal Opera House. Non far sentire la mancanza dell'altro italiano, quello famoso, sulla scena è una sfida vera e Luciano la vuole vincere. A giudicare dai fiumi di inchiostro versati l'indomani, la sua prima performance sulla stampa inglese, Luciano riesce nel suo intento. Lo stesso regista dell'opera, John Copley, in un'intervista rilasciata al Guardian, dirà: «Noi tutti pensammo che avrebbe avuto un grande successo, ma non ci rendemmo conto che sarebbe diventato una simile superstar». Il mondo comincia a interessarsi a lui, e lui al mondo. La strada verso la sua consacrazione a livello internazionale ormai è aperta. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. feed the animals in the zoo. Then later, movie two. Destini incrociati. Destini incrociati oggi a Londra, al Covent Garden, dove Luciano Pavarotti ha appena sostituito il celebre tenore italiano Giuseppe Di Stefano nel ruolo di Rodolfo nella Bohème. La sua performance è stata impeccabile. Il mondo intero adesso conosce Pavarotti. Ed è solo l'inizio. La sventura di Giuseppe Di Stefano, o Pippo, come lo chiamano tutti, è la fortuna di Luciano Pavarotti. Qualche giorno dopo quel debutto al Covent Garden, Luciano è chiamato, sempre in sostituzione di Pippo, che continua a non sentirsi bene, a presenziare allo spettacolo televisivo del Sunday Night at the London Palladium. Il Sunday Night at the London Palladium è un varietà che dal 1955 al 1967 è andato in onda sulla prima rete commerciale inglese, la ITV, seguito da oltre 15 milioni di spettatori. Un vero e proprio appuntamento obbligato per la Gran Bretagna, in onda da un teatro del West End, e oggetto di gran parte delle conversazioni il lunedì mattina. Gli ospiti illustri, la musica, le performance spettacolari, tutto riempie l'inizio della settimana in attesa della puntata successiva. Il reverendo Davis di una parrocchia del Surrey tiene le sue messe una mezz'ora prima, la sera di domenica, per permettere alla sua comunità di arrivare a casa in tempo per l'inizio dello show. Insomma, tutti, ma proprio tutti, sono davanti agli schermi, anche quando Luciano, quel settembre del 1963, si presenta con la sua voce. Neanche un mese più tardi, il 13 ottobre, saranno i Beatles a fare la loro comparsa nello show più popolare del Regno Unito. E proprio in quell'occasione, per il numero di fan accalcati fuori dal teatro, verrà coniato il termine Beatlemania. Per capire meglio quale grande fortuna sia capitata a Luciano nella sostituzione di Di Stefano e quanto onore il giovane modenese sentisse di avere nel prendere il suo posto, occorre approfondire la storia di Giuseppe Di Stefano. Quando si parla di opera lirica, di melodramma italiano e in generale di bel canto, è impossibile non fare riferimento a Giuseppe Di Stefano. Nasce una domenica di fine luglio del 1921 a Motta Sant'Anastasia, a pochi chilometri da Catania. Il padre è carabiniere e la madre sarta. A 6 anni la famiglia si trasferisce a Milano, in Porta Ticinese, e a 13 Giuseppe entra in seminario immaginando una vocazione presto smentita. Come ricorda lui in un'intervista, da ragazzo non aveva il sogno di diventare tenore, ma fu la fortuna di essere notato a dargli la spinta a proseguire. No, non ho mai sognato niente, non è nella mia natura. Ho vissuto come tutti i ragazzi, poi finché in chiesa, in seminario, mi è data l'occasione di cantare salmi che ecclesiastici, cioè quelli di chiesa. C'è qualcuno che si è interessato della mia voce, già fin da allora questa persona è ancora vivente, è l'avvocato Danilo Fori, che mi ha fatto iniziare, mi ha pagato le prime lezioni di canto e mi ha seguito per tutta la vita. E così ho cominciato a frequentare un maestro di canto, ho cominciato a fare i concorsi, dicevo quasi sempre, insomma, era molto facile per me, ero dotatissimo. Ed è iniziato così come iniziano tutte le carriere, insomma. Danilo Foà diventa il suo angelo custode, un giovane studente di legge appassionato di lirica che accompagna Pippo alla Scala in Loggione ad ascoltare musiche che per lui sono incomprensibili, ma che di lì a poco sarebbero diventate il suo repertorio. Nel 1938 partecipa a Firenze al primo concorso nazionale sezione Voci Grezze, sollecitato sempre da Danilo, e lo vince. Nel 41, come tutti i ragazzi della sua età, viene chiamato alle armi e nel 43, grazie alle sue doti canore, gli viene risparmiato di partire per la Russia. È l'anno in cui comincia la sua carriera di cantante di musica leggera e avanspettacolo con lo pseudonimo di Nino Florio. Ma da cosa nasce l'esigenza per un giovane cantante di usare uno pseudonimo? Questo nasce dal fatto che non volevo usare il mio nome per le canzonette, insomma. Pensavo di che avrei fatto, se avessi fatto la carriera era meglio che tenessi il mio nome, insomma, Giuseppe Di Stefano, insomma. Però ho cantato parecchio, l'ho fatto anche come Nino Florio. Ma sai, il canto allora fioriva da tutte le parti, compositori, c'era una passione enorme. Noi, soprattutto a Milano, c'erano tante occasioni di esibirsi. Comincia così a guadagnarsi i primi soldi. Ormai Giuseppe è lui l'unico sostentamento della famiglia. Canta nei locali, nei teatri, nei ristoranti, ma solo musica leggera. L'8 settembre, dopo il disfacimento dell'esercito italiano, parte per la Svizzera. È proprio qui che si fa notare a Radio Losanna e interpreta i suoi primi ruoli seri, come l'Elisir d'amore. A quel punto il suo talento è indiscusso. Anch'egli è sicuro di voler proseguire quella strada e, finita la guerra, torna in Italia, dove il 20 aprile del 1946 debutta con Manon a Reggio Emilia, la patria di Verdi e dell'altro protagonista di oggi, che comincia proprio in quegli anni a farsi una cultura lirica ascoltando i dischi del padre, tra cui quelli proprio di Giuseppe Di Stefano. Il debutto nel teatro più ambito del mondo, la Scala, avviene l'anno successivo. Si distingue subito per la sua qualità più grande, oltre alla voce morbida e inconfondibile dal timbro caldo e ricco, anche per la dizione chiarissima e il fraseggio appassionato. La mia dote principale, insomma, la dizione, il cantare le parole, oltre che la musica, questo mi ha facilitato poi anche il modo di usare questa voce poi nell'opera, insomma, quando ho cominciato, perché in fondo le canzoni hanno dei poeti che scrivono le parole, la storia, l'opera, lo stesso, ci sono dei grandi poeti, librettisti, e per cui l'importante nel teatro soprattutto è farsi capire. Dopo la Scala, il Metropolitan di New York, quale duca di Mantova nel Rigoletto di Verdi, ruolo che il cantante ricoprirà al Metropolitan per diversi anni. In quell'occasione Arturo Toscanini lo sente alla radio e gli telefona subito in albergo per congratularsi. Nel gennaio del 1951, quando Toscanini dirige alla Carnegie Hall di New York il Requiem di Verdi per ricordare i 50 anni della morte del grande compositore, vuole Di Stefano. Al termine di quella esecuzione, regala al tenore una medaglia d'oro. Su un lato vi è il volto del compositore e sul rovescio la dicitura «A Giuseppe Di Stefano in ricordo», con la firma autografa di Arturo Toscanini. Il 1951 è anche l'anno in cui canta per la prima volta con un mito dell'opera, la soprano Maria Callas, che incontrerà nella sua carriera molte volte, come nella mitica Traviata, alla Scala. Pippo è conosciuto in Italia, ma soprattutto nel mondo. Il suo carattere è gioviale, aperto, vitale. Si presta alla neonata TV italiana, come in questo caso, per un quiz. Tutta la mia vita sei tu. Esatto! Esatto! Per 20.000 lire, secondo motivo. Pronti? Via! Tre sono le cose che piacciono a me. Tre. Anche l'America lo adora, sia come interprete ma anche come persona. Ecco come lo introduce un presentatore durante un galà a Chicago. One of the most beautiful voices of our time, the simpatico per antonomasia, Pippo Di Stefano. Di Stefano, quando quel settembre del 1963 ha un calo di voce ed è costretto a lasciare il ruolo di Alfredo al suo sostituto, è già un mito della lirica. Eppure il destino ha deciso di prestare ad un giovane promettente il suo pubblico del Covent Garden. La sala della Royal Opera House è gremita. Il tenore italiano è seguitissimo. La Bohème di Puccini è un classico che non ci si può far sfuggire. Quella sera però nessuna brutta sorpresa per il cambio improvviso del protagonista tra le ladies e il gentleman della platea. Piuttosto la fortuna di avere partecipato a loro insaputa al debutto internazionale di una nuova star, Luciano Pavarotti. Più tardi lo stesso Luciano risponderà così a chi gli chiederà chi sceglierebbe come suo sostituto. Se dovessi sceglierne uno, sceglierei Di Stefano, perché è moderno e musicale. La sua voce è fantastica, è solare. Come persona è fantastica, non tutti lo sanno. Le vite dei due tenori si sfiorano varie volte da allora. Anche nelle vicende personali c'è qualcosa che sembra far pensare a un incontro stabilito a tavolino dal fato. Sono soprattutto due grandi interpreti, ma anche due italiani solari, due vere stelle nel firmamento del bel canto. Destini incrociati. Destini incrociati e all'opera. Dopo la sostituzione di Di Stefano nella Bohème di Puccini al Covent Garden di Londra, comincia per Luciano Pavarotti l'ascesa all'Olimpo dei tenori. La personalità di entrambi è indiscutibile, così come il loro talento. Gli anni della conferma internazionale di Luciano coincidono anche con la potente diffusione di un nuovo mezzo di comunicazione, la televisione. Alle capacità canore si aggiunge così la potenza mediatica. Nel 1964, dopo i primi successi londinesi, comincia per Luciano la vera carriera. La casa discografica London Decca gli fa incidere un 45 giri accompagnato dall'orchestra del Covent Garden. Nel 1967 arriva la conquista dell'America a San Francisco con l'amica Mirella Freni e con la sua inseparabile Bohème. Il successo è enorme, porta subito nuovi contratti per gli anni a venire e l'attesa chiamata al Metropolitan di New York. Il debutto al Met segna un punto d'arrivo per Luciano e anche la fine di una schermaglia cominciata col padre 7 anni prima a Reggio Emilia. Fernando, infatti, ha un modo tutto suo per incoraggiare il figlio. Dopo la prima Bohème del 61 gli dice «Bene, ma Laura Volpi era meglio». Dopo il successo al Covent Garden, che l'ha consacrato a livello internazionale, gli scrive «Tagliavini era meglio». Dopo il battesimo della Scala, «Gigli era meglio». Quel 1968, dopo gli applausi del pubblico newyorkese, è Luciano a giocare d'anticipo telegrafando al padre «Caruso era meglio». L'ambizione è grandissima in Luciano, come dimostra questa risposta a un intervistatore che lo definisce il più grande tenore dopo Caruso. Ma non si può sempre essere primi nel mondo. E poi ritengo che Caruso sarà insuperato per sempre. Cercherò comunque di migliorarmi per arrivargli il più vicino possibile. Gli anni 70 sono importantissimi per Pavarotti. Il tenore incanta America, come lo chiamano ormai i giornalisti italiani, è diventato un fenomeno che supera i confini del teatro d'opera. Persino Di Stefano è chiamato a introdurlo in una sua performance e lo farà in maniera ironica, come si confà a chi ormai ha una celebrità. Certamente sono molto felice di essere qui, ma non mi posso fermare a lungo. Ho prestato le mie bretelle a Luciano Pavarotti. Ecco perché non mi posso muovere di qui. Orde di fan a seguirlo quasi come una pop star. Il Newsweek gli dedica servizi interi. Il Time lo mette in copertina con il titolo «Bravo Pavarotti». Quando interpreterà il Rosenkavalier al Met, il New York Post scriverà di lui. Pavarotti, come cantante italiano, segue una tradizione del Met che ha visto Giuseppe Di Stefano interpretare questo ruolo nel 1949. Eppure è quasi un fatto unico avere Pavarotti in questo ruolo e il confronto, in termini di popolarità, deve andare indietro al 1911, quando Strauss cercò a tutti i costi di avere Caruso per la parte. Di Stefano è sempre lì, il paragone è inevitabile, due grandi della lirica a confronto. All'ascesa dell'uno, però, corrisponde una piccola flessione della carriera dell'altro. Mentre Pavarotti organizza i primi concerti televisivi, raggiungendo così milioni di persone e non solo le migliaia in un teatro, Pippo parte con una tournée mondiale al fianco dell'amica e ora anche compagna Maria Callas. Amore sul palco, ma anche fuori. We've been singing for 23 years together. Abbiamo cantato insieme per 23 anni ed è stato amore a prima vista, fin dall'inizio. L'occasione per la Divina è risollevarsi dalle delusioni amorose e artistiche vicino a un amico solare come Pippo. Per il tenore, invece, c'è anche un altro obiettivo: raccogliere fondi per le cure della sua seconda figlia, malata di leucemia. Le preoccupazioni per la salute di una figlia saranno al centro della vita familiare anche di Luciano Pavarotti, qualche anno più tardi. Per ora Luciano è lanciato verso la conquista delle platee, ma anche dell'etere. La sua voce è conosciuta ovunque, così come il suo personaggio, costruito con le sue apparizioni in pubblico, con la sua simpatia e il suo fazzoletto, a detergere il sudore. comparso proprio nel suo primo concerto. Tutti elementi che servono ad alimentare il mito. Arnold Schoenberg, critico del New York Times, ne parla così. Nella sua mano ci sarebbe stato un fazzoletto bianco spiegato, grande come la bandiera fuori dalla Casa Bianca. Gli era necessario come a Linus nei fumetti di Peanuts. Era indispensabile la sua coperta protettiva. Alla fine degli anni 70 Pavarotti esce dalla categoria dei cantanti d'opera per diventare un personaggio pubblico. Un'incredibile campagna mediatica viene realizzata dal suo agente. Gli anni 80, infatti, sono gli anni della televisione. La PBS realizza programmi a non finire sul tenore italiano. Persino il cinema gli chiede di fare un film. Yes, Giorgio. Good luck, Giorgio. No, you must never say good luck. We say in bocca al lupo. This mean in the mouth of the wolf. You see, if you expect disaster, maybe good luck come. Okay, in bocca al lupo. Crepi il lupo. E la buona fortuna per Luciano prosegue. Gli anni 90 arrivano con i mondiali di calcio e il concerto alle Terme di Caracalla con José Carreras e Placido Domingo. Replicato nel 1994 a Los Angeles. Quando José spiega al Time in un'intervista del perché di tanto successo per quella serata, dirà: «Il pubblico ama le sorprese e noi tre, essendo latini, abbiamo l'improvvisazione nel sangue». Nel 1991 affascina più di 250.000 persone con un grande concerto a Hyde Park a Londra. Nonostante la pioggia battente che cade pure sugli entusiasti principi di Galles, Carlo e Diana, lo spettacolo diviene un'altra volta un evento trasmesso dal vivo in televisione in tutta Europa e negli Stati Uniti. Pavarotti è la perfezione. Pavarotti è la tenorità, come scrive un giornalista di Repubblica di quegli anni. Lo vogliono dirigere i più grandi maestri, da Herbert von Karajan a Carlos Kleiber. Grandi onori per Luciano, ma il 1993 è l'anno del Don Carlo alla Scala. La sua voce cede, i logionisti non perdonano. Certamente una reazione spropositata rispetto all'incidente tecnico che ne è stato la causa. Ma come titolerà la Nazione l'indomani, quei fischi sono nati dal mito dell'immagine. Pavarotti è un grosso bersaglio, come scherzerà lui stesso. E quindi è appetibile. Ma il pubblico ha sempre ragione. Alla domanda di un giornalista americano sui logionisti, risponderà: loro credono di avere il diritto di applaudire o fischiare. E se vuole la mia opinione, hanno ragione. Ci vorranno 2 anni dopo la caduta scaligera prima di rivederlo in Italia. Intanto partecipa a talk show, racconta di sé e di tutte le cose imbarazzanti che gli sono successe, inconvenienti del mestiere, tanto per completare la costruzione del personaggio, come quella volta che a Parigi si è rotta la sedia in scena sotto al suo peso. Durante le prove ho visto la sedia per me. Le ho dato un'occhiata, bella, moderna. Molto fragile. E così ho preso da parte il direttore di scena e gli ho detto: la romperò. Pavarotti è irresistibile. Ecco come lo apostrofa una signora del pubblico in un programma televisivo. Mr. Pavarotti, parlo a nome di tutte le donne presenti in sala. Volevamo farle sapere che amiamo gli uomini large, Mr. Pavarotti. Specialmente uomini large con una voce large. Le donne lo amano, le donne del pubblico, ma non solo. Nel 1994 cominciano le indiscrezioni sulla sua storia con Nicoletta Mantovani, una delle sue collaboratrici di 30 anni più giovane di lui, che porterà a un divorzio miliardario dalla prima moglie Adua e alla nascita di una terza figlia, Alice, sulla quale scherza. I became grandfather before. Sono gli anni di Pavarotti and Friends e della beneficenza. La musica pop ora è la sua nuova frontiera dopo la lirica. E pensare che per il tenore che gli ha concesso di mostrarsi al grande pubblico, quel lontano 1963, la musica leggera è stato l'inizio, e con uno pseudonimo per giunta. Pavarotti, invece, ormai è un marchio di garanzia. Non teme di usare il suo nome come un logo. Pavarotti vuol dire opera, ma anche grandi folle per i suoi duetti a fianco di tutte le pop star internazionali, da Zucchero a Sting, dagli U2 a Lucio Dalla. Ave, ave dominus, Nel 2007, poco prima di lasciarci all'età di 71 anni, quasi come un testamento spirituale, Luciano chiede infatti di essere ricordato come un tenore d'opera. Il bel canto è il suo primo amore e non vuole che il personaggio costruito dai media continui a fagocitare l'artista. Giuseppe Di Stefano ci lascia l'anno successivo, in seguito a un'aggressione subita nella sua casa in Kenya, da cui non si riprese mai più. Una vita meno urlata rispetto a quella di Pavarotti. Nessun rumore intorno alla sua scomparsa, pur lasciando un vuoto altrettanto grande. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.